37. Valerio, sei tu? Marco. Ebbene, Natalino, sto tornando adesso, ero fuori. Poi ho trovato una bolletta, o meglio, era già pagata oggi, ho fatto un fax. Tutta roba ritratta, dimenticata. Ma cosa mi era successo? Un mese fa. C'era questa bolletta, no? E andavo a pagare. Vado alla ricevitoria e il terminale diceva che al terminale risultava che era già stata pagata. Ho detto, ma è sicuro? Sì, sì, qua risulta pagata. Io ho detto, boh. E vabbè, ho detto, se è già pagata non la pago. Invece dopo un mese ci mandano la raccomandata con il cosiddetto preavviso di distacco. E già ne hanno di fretta. E quindi l'abbiamo pagata oggi e ho mandato anche il fax al numero verde. Così me ne scomoda, eh? Hai capito? È strano amico questo fenomeno, non mi era mai successo che una bolletta risultasse pagata. Oh, magari con questi codici succede un pasticcio amico. No, è Gianni il caldo. Ciao Marco, ciao Natalia, cosa è successo Marco? No, no niente, un mese fa sono andato a pagare una bolletta della luce, no? E il terminale della ricevitoria diceva che era già stata pagata. E ho chiesto, ma è sicuro? Dice, sì, sì, risulta pagata. E io non ne ho pagato. E dopo un mese te la rimandano tramite raccomandata la bolletta. E quindi è stata pagata. Oggi ho fatto il fax a numero verde, così me ne escono dal posteriore. Ah, quindi non era stata pagata e loro dicevano che era pagata. Certa roba, uia. Lo sai che cosa, che te lo possono abbassare e poi staccare del tutto la luce. Anche se è errore loro, poi devi andare tu a farlo riallacciare e fai compagnia. Sì. Risultava al terminale della ricevitoria, no? Un bar con la ricevitoria. E lì proprio risultava al computer che era pagata. Ma il computer loro a chi si collega? L'Enel o a cosa, boh? E sono l'ofimi quelli dell'Enel, sono dei farabutti, magari te lo fanno apposta in modo da staccartela e poi devi pagare un bel per riallacciarla, già lo so. Bene, buonasera a tutti, dai, io sono arrivato adesso al bar a pigliarmi un caffè, poi ho trovato uno del posto, mi stava mangiando il cervello. Bene, adesso io quasi quasi mi scaldo la pizza e me la mangio, che è l'ora giusta. Ehi, ha fatto questo di mangiarti il cervello? Il giorno che era pronto soccorso, se l'avessi trovato uno di questi mangiacervelli a farmi compagnia, mi sarebbe venuto la terra perché me ne sei andato. Almeno ho parlato con questo qui, che era di Porto Torre, tra l'altro non conoscevo di vista. Ma mi ha raccontato tutta la vita sua, lui. Però almeno mi ha fatto compagnia. Eia. Eia, eia. Con queste bollette, mamma mia, poi sempre per un mese di distanza è arrivato raccomandata preavviso di distacco e pigliare gli indocci subito, se no, subito si ritardi un mese preavviso di distacco, ma uscitene da mezzo pidocchi. Invece di telefono ci è arrivato 200 euro perché mamma soprattutto a Natale ha telefonato a mezzo mondo, ha fatto una marea di telefonate, 200 euro di telefono, renditi conto. Ah, noi paghiamo sempre la stessa cifra, che telefoni molto, che telefoni poco, sempre quello pago. Ah, pagate un fisso, qua è un po' più complicata, poi diciamo che già di abbonamento paghiamo abbastanza, c'è un numero fisso della Tiscali, proprio un telefono fisso, no? Non cordless, e poi un cordless, quindi abbiamo due linee, più la wifi 8 giga, o ormai è salita quasi a 10, ma è un 8 giga ufficialmente, e paghiamo invece in base alle telefonate. Gira gira conviene fare come hai fatto tu, pagare un fisso, tanto noi andiamo sempre oltre il limite, capito? Ci conviene più una tariffa del genere, purché ci sia anche wifi. Solo che sai cos'è già? Ci hanno permesso con questa cosa di tenere il vecchio numero che era di Telecom, il vecchio numero di Telecom, più un numero Tiscali, che vabbè usiamo poco, però volendo, se occupate una linea c'è un'altra libera, capito? Per telefonare. Ma non siete un c***o, cazzo, se trovo l'occupa te lo richiamano, lui, no, io pago 39 euro al mese e c'ho wifi e c'ho anche, come si dice, telefono fisso, tutto compreso, chiamo, pago solo, scatto la risposta e basta, tutto io, e poi il resto è normale. Ma cos'hai, quelle Vodafone Station? No, no, io ce l'ho, come si chiama, va, lasciami pensare, non lo ricordo. Non mi viene, dai, te lo ricordo. Eia, sai cos'è, io se cambio però non voglio quelle cose tipo Vodafone Station, che non sono altro che dei hotspot wifi fissi, no, assolutamente. Io vorrei una linea normale, cioè che sia fissa o cordless, vabbè, una linea, e poi il wifi tramite cavo, come faccio ora. Non voglio roba, cioè il wifi ce l'ho e lo uso solo se mi interessa, il wifi, il modem wifi ce l'ho, lo attacco esclusivamente quando mi serve. Non voglio wifi fissi che poi sono violabili, fidati di un cretino che lo fate prima di... Se cose, vabbè, non ne parliamo. E vieni a violare io se ci riesci. Eia, io mi affido, com'era quel programma bello, adesso non mi ricordo, di Linux, a riga di comando, porca miseria, non me lo ricordo più, vabbè, l'ho usato sotto Linux, piano piano capta i pacchetti, anche se c'è la cifratura, alla fine risali alla password, è solo questione di tempo. E quello di Linux che ce l'ha per cui un cazzo gli fai a questa? No, dici, niente impossibile, solo che io non ne so fare, io, le mie conoscenze si fermano al 2000, e boh, e vabbè. Poi sono già stanco, guarda, ho fatto una commissione, sono, ma se vi dico oggi che ero a letto fino alle 5 di sera, fino alle 5 di pomeriggio ero a letto, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Lo sai, siamo un po' sveglio, poi crollavo, mi riaddormentavo, sognavo, lo sai, non so se mi appunto la mosca ZZ, no, non lo so, non riuscivo a tenere gli occhi aperti, avevo un sonno, un po' mi svegliavo, poi mi riaddormentavo, poi sai, non c'era forza di volontà di alzarci prima, stavo così bene sotto le coperte, tanto lo sai che impegni non ne ho, quindi... Marco, non per farti spaventare, ma tu analisi ne fai mai? Perché il nostro corpo, come difesa immunitaria, quando c'è qualche valore sfasato, roba del genere, ti provoca il sonno. Cerca di dormire per riattivarsi. È dovuto probabilmente a qualche valore, magari in eccesso, non lo so. È il fegato che ci ha impegnato, è ubriaco nel pratico, è lui che non abbia la cirrosi epatica. Allora già, io mi ero fatto un'impegnativa per fare le analisi solite del sangue, glicemia, tutto, tutte le solite analisi diritto. Diciamo che la mandronia acuta già, perché io stamattina mi sono svegliato, alzato per fare colazione alle 9, poi, siccome tanto non ho niente da fare, mi sono ricoricato e riaddormentato, ma se no ero già in piedi stamattina alle 9. E la mandronia acuta, il morbo di Mandrox. Ehi, ma questa mandronia è dovuta a qualche cosa, Marco, non puoi... Se tu sei sempre stanco, probabilmente fisicamente c'hai magari qualche valore scompensato, capito? Magari in eccesso oppure diminuzione, non si sa, però magari mancanza di ferro, mancanza di calcio. Se c'è mancanza di calcio ci penso io, vieni a casa che lo do io un po' di calcio. È mancanza di vitamina F. OM, maschio santo. È bruttato il caldo. Vitamina F, no, io sono sempre stanco, ma io probabilmente ho questa stanchezza cronica che non è riconosciuta ufficialmente, quindi non hai diritto a niente anche se ce l'hai, capito? Sindrome a stanchezza cronica, che spesso si accompagna con quella cosa che mi viene saltuariamente, quello sindrome da vomito ciclico, sono due cose che vanno di pari passo spesso, caso strano, se no non si spiega. Va bene, non parliamo di queste cose brutte. Io mi stavo per scaldare la pizza, dai, c'ho anche la Coca-Cola, pizza e Coca-Cola oggi, dai. Quindi riprendete voi, poi entrerà Claudio anche. Claudio, ci sei, sì? Sì, arrivo subito. Ehi, ha visto che c'è. Adesso entrerà anche lui, dai, io mi scaldo la pizza e pranzo. Eh? Come sempre. Sì, insomma, a letto fino alle 5 di pomeriggio, era uno scandalo oggi. Uno scandalo, è bello che mi piaceva restare a letto, capito? Bello quel calduccio che ti mi sembrava di essere nel ventre della mamma, sai? Se devono essere ricordi primordiali, no? Prima della nascita. Oh, yeah. Mi sa che c'è tu lamentuzzo, mi sa che una stromata, una stromatina, un po' di peperoncino. Sai cosa ci vorrebbe? Un po' di Carolina Reaper nel sedere. Il Carolina Reaper è il peperoncino più potente del mondo, con una piccantezza di 2 milioni di Scoville. Cioè il calabrese credo che sia 500, il valore è 500 della piccantezza del calabrese, quello è 2 milioni. È una cosa che ti crea anche ustioni della bocca, una cosa, cioè non è commestibile normalmente, diciamo che lo diluiscono molto negli alimenti, cioè da un peperoncino ci fai un bel di roba piccante, capito? Ma se te lo mangi puro è terrificante, finisci all'ospedale. Sì, perché se ti infilano un bel calapegno, cazzo. Lo sai che a me una volta me l'ho fatto assaggiare una salsa a Roma, amico, che mi ha bloccato le mandibole, non riuscivo più a chiudere la bocca, dalla potenza che aveva. Una salsa piccante, pare che era, e una salsa rossa, mi pare che fosse, che praticamente era rossa, sequestrata all'aeroporto. Scusa, mi sa che dovevo fare la guardia all'aeroporto, ho sequestrato una roba che c'era nel guardia, ma se l'ha presa lui e me l'ha fatta assaggiare, cazzo, ma eia, perché ci sono salse, per esempio l'abanero è bello forte, poi c'è lo scorpione di Trinidad, poi il Carolina Reaper è in assoluto il più forte, c'ha la stessa potenza dello spray al peperoncino che ti spruzzano, mamma mia, è una cosa terrificante, ho visto dei video, gente correndo, urlando, perché ce l'ha mangiato intero, mi è piccolino il peperoncino, e c'è una specie di codina a punta, no? Sembra quasi la punta dello scorpione, ma è roba terrificante, è terrificante, può nuocere gravemente alla salute, cioè ti figurati quando va a finire nello stomaco e nell'intestino. Altro che ti friggi un bella ganna alla meningiana, la meningiana, altro che meningiana è. Ma ce la facciamo una bella arrabbiata, Marco. Questa è una salsa messicana. Col jalapeño messicano, ma il jalapeño è niente in confronto. Mamma mia, è una cosa, non so se sia fatto, addirittura mi pare che l'abbiano studiato in laboratorio, hanno copiato varie varietà di peperoncini forti, hanno ottenuto questo Carolina Reaper, un nome un po' strano. Guarda, deve essere una forza della natura. Sono come me che metto peperoncino a tutte le parti. No, ma vuole graduato, il peperoncino a tutte le non è che li può cacciare, non viene nessuno, la metto per in polvere. Tanto per dargli sapore basta, non è che le cose non bisogna esagerare, bisogna andare sempre alla via di mezzo. Se le metti graduate non ti fanno nulla, se le metti in eccesso poi alla fine è normale che ti vengano le morrughe, ti viene la diarrea, eccetera, eccetera. Gradatamente le cose non fanno male, vero Marco? anch'io. Così lo vedi correndo, se si mette un bel ciarapegno. Ma scusate, non c'è cosa ho fatto da piccolo, avevo forse 7 anni, 6 anni. Eravamo tutti seduti al gradino del portone, non me lo ricordo ancora, e c'era una donna che metteva il peperoncino alla finestra e essiccare, no? Quello il rame proprio, che ci piccheggiava bene. E fatto sta che mi è caduto, un peperoncino è caduto, un rame con un peperoncino attaccato. Io l'ho preso e ho detto a quest'amico mio, che era un tipo di banana essiccata, no? Ma è buono, ha detto sì, mangia, cazzo, abbiamo essiccato, ha cominciato a triccheria, ohia! Invece questo cuoco, lo sai che per fare l'arrabbiata cosa ha messo? Già, un peperoncino però fresco, non vuole secco. Ah, fresco, ancora picchio, quello verde là. No, rosso era, ha tagliato tutto a pezzettini. Semi e tutto ci ha messo nella cosa, nel sugo dell'arrabbiata, Sì, cazzo, proprio i semi che ti crepano. I semi sono per furti. Proprio fatti di male. Ti fatti di labbri. Una volta mi ricordo che ha ucciso un Cesare, la Bonani, ma aveva fatto una pasta e cucinava un po' bene. Cesare, ma aveva esagerato con peperoncino. Abbiamo mangiato lì stasera, perché c'era qualcuno di noi. E ci ha fatto Cesare questa pasta. Arrabbiata, cazzo, si sono osciugata, sai cosa vuol dire? Mi scendevano le gocce, la cazzo, ma non per dire, non aprivo, mi scendevano le gocce, cazzo, ho detto, ma c'è, cioè, le cazzo dei buci, 5, cazzo, non so se, e ne mette mezzo, uno, cazzo, ma non di più, sennò non lo puoi mangiare. Una volta io sono andato in ristorante, quando ero fidanzato con Paola, tutti in cuffia eravamo, una bella greppa grande, e sta navigando vista arrabbiata, guarda, non mi puoi mangiare. Beh, ci credo, perché ci sappiamo, io cazzo mi asciugavo la fronte con il fazzoletto, ma mi guardavo le gocce a tutti, ho detto, boh, ma se non ne mangio più, se non mi mangio c'è ancora, ah, ma già che non ti mangi luce, tutti quanti, basta bene, basta bene, non ti mangi luce, ne illumino, ne leva, ne luce, ne prende latte per passarti il bruciore, anche quando vai bruciare di stomaco, basta bene un po' di latte e ti passa sempre. E allora, io provo a farla qualche volta, l'arrabbiata, però no, amore, vuoi punirmi su Guadalò, non si ammazza. A me mi imparavano i ricucci di Rosulori. E a te, a me no. Se non vuoi vedere che se lo si è piaciuto di me contro un bagliolo, perché mi scendevano le ricucci, ma non sta scherzando, mi stava sciogliendo. Se tu non lo mangi, 3 o 4 diventi la neuralgia. Appena poi tu zinco qui sul basso, fai forza. Ti pare poi puni 5 bevaroni, 30 dosi di rosugo, mamma così, oi. Una volta la salì sono andato, ho portato una vacca cosa macellare. E praticamente c'era quel vitello dentro. E praticamente lo stavano buttando. E mi detto già lungo, lo sai che anche è buono. Ho preso e l'ho messo dentro la busta e l'ho portato, l'ho portato di Alciso. Abbiamo fatto di sabato di sabbintese anche per Cesare, ma il burro era, ma buono, cazzo, non sai quanto è buono, ma è ancora, stava per nascere, stava, cazzo, era una mattata. Dimmi tu, hanno avvisato che era gravida la vacca, boh. Chi è che avete messo incinta? Una vacca. Grascia. Allora, una volta l'ho portata, perché prima, portato il portatore, c'erano le due canne, uno che portava il bestiame vivo, lo macellavano, poi andavo, la mamma con il canno che ho portato la vacca, per dire, quel toro, che cosa era, lo lavavo, scendevo con quel canno e prendevo la turchito, e me lo facevano anche se me lo caricavano. Ho capito. Ora, ma tu scendo, sì. Ho voglia. Praticamente, allora, andavamo noi a prendere il bestiame nelle campagne, poi era dopo un casino, ci sono riusciti un burro a coso, a Santa Teresa, lui gli ha trasportato carne col camion. E dov'è che lavorava? La sua casa? No, a Castelsardo lavoravo. E me la caricavo pure sulle spalle. Quando mi scendeva a casa faceva tra tra tra tra tutti rossi, cazzo di Dio. Noia. Perché a Castelsardo dove c'è spazio di casa? Una ditta di trasporti che trasporta la Castel, la ditta come si dice, aveva nome da me. Ma te la fatta anche a Valleduria, vero? Eglia. Come si chiamava il tipo, te lo ricordi? Antonio. E ha pregato anche al figlio di Gianni Capri 2 e ha detto no, quando a me non si paga a Giumai che te lo pone in riguardo pure Burma che l'ha venduto lo solo l'altro non pagava nessuno. Aspetta che lo chiedo a mia moglie, te lo ricordi cosa me quello che andavo a Galleria? Ah, Antonio Lupino si chiamava. Ah, non è lui, no, allora, perché ce n'è un altro che c'ha, praticamente, che conosco di vista, che ve l'hanno presentato, l'ho conosciuto, che praticamente è di scuola, ma si chiama Antonello, Lupino, è quello che c'ha in Pulma. Quello che non paga. Giuseppe c'è. Giuseppe, sì. Ma a te stavo pensando che Giulio ieri mi sentiva più facile quando ha cambiato l'antenna, magari non c'è più la centrale di prima. Oh, qua arrivi bene già. Aspetta, chiamo. Attenzione Giuseppe, buonasera, mi copi? Vabbè, dai, niente da fare. Dimmi già. Oh, io ti sentivo bene. Sì, il portatile era più basso di segnale. Ma tipo 9.5 arrivavi. 9.5 non di più. Forse perché sai, il portatile ci avrà sì e no, 3 watt. Anche, per esempio, quello che ho io, come si chiama? Il Maxcom 7, dichiarato 5 watt. Invece ce ne da 3, intorno ai 3. Ho l'alimentatore, mi, non di più. Sì, infatti io stavo usando solo l'apparato, non è che stavo usando l'apparato. È strano, perché quell'apparato è sempre uscito buono, bene, anche il segnale. Non so come va, è stato fermo, si rovina, no? Era adesso da un bel po' di anni fermo. Ogni tanto lo metto in moto per farlo riprendere, ma mi sembra strano che non mi dava, capito? Non mi dava va. Ma li hai misurati i watt col strumento? Sì. Ma non ha potenza alta bassa, no, il bottone? No, no, non ne ha, non ne ha. E magari facendo lo scaldare si riprenderà, con la sì che sia, il fatto che sia stato un fermo un po' di tempo. No, quello già va bene, ok, però anche con l'apparato grande mi sentiva più basso, detto 9,20 invece che 9,30. E può darsi che sia come lui ha fatto con l'antenna, magari in questa zona qua va di meno, lui ha detto, secondo come la metti, qui c'era il terrato, quell'altro c'era sul tetto, il fugato, questa qui c'era l'altro terrato, magari anche quello lì. Lei chi lo sa? Chi lo sa? Ma a me piacerebbe fare un giorno un confronto tra una normale 5 ottavi, non la mia, magari una Mantova se si trova, che ormai, e una di queste canne da pesca, messe sullo stesso palo, tolta una, messa l'altra, vedere le differenze di segnale, provarla. Io sono più per l'alluminio, vabbè, ma è una fissazione mia, non mi piace nella vetroresina, fibra di vetro, quello che è, mi piace l'alluminio. Bene, riprendi Claudio, la pizza mia sta scaldando, e vai Claudio. Eia, va bene, va bene. Io funziono bene quelle antenne, se sono messe bene, già funzionano bene. Non c'è problema. Va bene, va bene. E io qua c'è qualcosa che ho fatto. Non so. Non so se il microfono, però qualcosa che non mi convince, vabbè. per c'è la stazione aliata. Scusate un attimo che ho fatto nella staccata. Ehi, Claudio, qua sei di lusso, no? L'aria è bella forte, non c'è niente di strano. Sarà un indicatore, boh. Boh, non l'ho mai fatto. Era molto più sensibile. Lì, sai, 4.40 bisogna stare sempre allerta, ogni tanto qualche magagna esce sempre. No, no, il jack-check, ma no, non è come quello che avevo gli altri giorni, capito? Per quello che lo sto dicendo. Io già me ne accorgo. Va bene, va bene. Sta uscendo, lasciamolo uscire. Carlo ci farà un fumo, ma ci vecchia. Già di stazionari, qua mi segna un scusa, c'è un aspetta, lasciami vedere, appena che era regolato male sicuramente, però non scende, non calibra, capisco, il problema è quello, non capisco perché non calibra, lo mette a calibrare e non calibra, e così è tutto gioco. Allora non è stazionale. Guarda, fino a 2 è sempre accettabile, dopo il 2 bisogna un po' preoccuparsi. Certo, meno se ne hanno meglio è. No, era regolato male prima, allora non ci muovi in mano. Era regolato male il coso, l'apparecchio. Adesso guarda, mi ricordo, io usavo spesso, ho usato nella storia lo ZGTM999, che è veicolare, è un rosmetro basso e un metro a colatore veicolare, no? Io mi ricordo già negli anni 90 ne avevo rovinato uno, si era rovinato, usandolo con normali watt, si era rovinata la parte accordante, beh, l'ho ricomprato nel 2010, è durato un po', poi si è rovinata la parte accordante, l'avevo ricomprato e si è rovinata la parte accordante, ma sai perché? Allora, mentre gli accordatori veri hanno quelle lamelle distanti, non so se le hai mai visto dentro, beh l'avrei visto anche l'HP1000 così, c'ha quelle lamelle distanziate di un po', il TM999 usava degli schifosissimi potenziometri, tipo quelli delle radioline dentro, quelli proprio del caschio erano, e si rovinavano anche con normali potenze, capito? Un 12 watt SSB, proprio una ZG fa roba di cacca, a parte i microfoni, fa roba di cacca, terra a terra. Si salva l'HP1000 perché, sai, un po' più curato, giustamente costando di più, leggermente più curato, ma i microfoni si salvano, te l'ho detto, sia da palmo che di che da base. Ah, Gianni, sì. Ho letto su siti americani, un americano ha detto, le sue parole tradotto, che notoriamente i microfoni ZG uscivano in modo terribile, secondo la testa loro, e loro che usano gli estati che escono sui metallici acuti, vedi che gli americani hanno un modo di ragionare abbastanza perverso, dice che gli ZG da tavolo stava parlando, uscivano notoriamente male, ma io non so che ZG abbia usato, magari era tutto rovinato, modificato, cambiata la capsula. Scusate un attimo, sono al cellulare. Allora Claudio, allora, vabbè, già nel cellulare, Natalino, c'è gente, io sto iniziando a mangiare, dai, l'ora tipica, dai, sono anche un po' in ritardo, dai, poi già, sono all'ascolto sempre. C'ho tutto spento, persino il ricevitore oggi. Il ricevitore persino. No, ma anche io, non mi interessa. Fai che cambio lo spettacolo. Capri due? No, credo fosse lui. Claudio, sì. chiama? Via, scusa un attimo. Ma già tranquillo, non stare mangiando e parlando, già adesso sono qua, io non ti preoccupare, mangia, mangia. Ti volevo chiedere, ci ho sentito che Bianconi voleva chiudere, adesso ho acceso. Ti volevo chiedere, ma Bianconi è già andato in pensione, cioè già chiuso o in procinto di chiudere? Che mi chiedevo io, chi c'ha il 440 a rifare il rifletto dei puntini? Ormai non c'è più nessuno che lo revisiona come fa lui, o sbaglio? Sì, ce ne saranno altre cose per dire, ma guarda che Carlo Bianconi c'ha 70 anni, non pensare che sia un giovanotto. C'ha 70 anni, c'è in pensione lui, capito? Però chiude come laboratorio perché non ha più l'età per poter stare presso queste cose. Così mi aveva detto a me l'ultima volta, ti sto parlando dell'anno scorso, settembre dell'anno scorso, quando mi ha mandato il 430, capito? Mi ha detto che per la prossima volta ne ho mandati neanche perché chiudeva, non ne faceva più riparazioni. Caspita, ma se uno ora come ora, cioè uno ha un 440 di puntini, a chi lo manda? Non si sa ancora chi li fa, no? Chi li fa ufficialmente, tipo Bianconi? Non lo so. Non so cosa dirti, guarda, è un punto di domanda, non lo so. Vedete, Bianconi ha chiuso, che erano quelli che lavoravano su Chemodicom, c'è la CSONG, già te lo metti a posto, però c'è la Biglione, che buca cara. Poi cosa volevo dire? Ma passato di mente. Ah, che appunto quella persona mi aveva messo l'8.900, lo IESU sulla bacchetta, no? In vendita. E uno aveva detto, non so se per scherzo o cosa, aveva scritto, guarda, se mi aggiungi questa somma ti do un 4.40. Non sanno più a chi rifilarli questi Kenwood. Vabbè, vuol dire che lui le piaceva quel tipo di radio. Io l'ho avuto, te l'ho già spiegato, ma non mi sono trovato bene, perlomeno in macchina non era semplice da usare. Quindi l'avevo venduto e avevo messo il Kenwood che avevo io, che è molto semplice, ce l'ho ancora dentro l'armadio, che chissà se funziona, non lo so, qualche giorno lo prendo, l'accendo a vedere. Tu, che vuoi che ti dica, lì quando sono i puntini devi comprare il kit di sopravvivenza del 440, che è il kit dei commissatori, e cambiateli, se sei bravo, se no lo prendi e lo metti da parte. Il problema è che c'è Franco, che ce l'ha ancora lì, capito? Franco Risorso ce l'ha ancora lì, e Bianconi penso che abbia già chiuso, perché a gennaio del 2018 chiudeva, ma me l'ha confermato anche altra gente, che ha telefonato, non rispondeva ancora al telefono. E allora ha chiuso, sì, ha chiuso a livello di laboratorio, vabbè. Mi ricordo anche quando su Roger K c'è un mercatino, volevo vendere l'857 e c'era gente che voleva fare scambi, chi mi voleva dare parte soldi e parte baracchini, alimentatori, roba vecchia, infatti poi ho scritto, come scrive Acquario 58, no, che scrive sempre astenersi, perdi tempo, rompi balle, ci ho scritto la stessa cosa, astenersi, indecisi, perdi tempo, rompi balle. Allora non mi hanno più contattato, capito, quelli che non avevano soldi né erano indecisi, capito? No, io non ne ho mai messo nei mercatini, mi hanno sempre contattato, anche da fuori, per vedere se avevo 440, 430, 140, ma io ne ho venduto una marea vuol dire una marea, non scherzavo. Una marea, 140 ne avevo venduto una decina almeno, tutti perfettamente funzionanti, non ho mai avuto una mentera. 440, 5-6, 430 ne ho venduto 2, 1080 ne ho venduto 4, mai ho avuto una mentera. Eia. Vabbè, mi ricordo quello di Gianni, non è andato tanto bene, mi fare, che già l'avevo venduto a me, no? Andava bene, vabbè, per la mia voce sempre non è adatto, però quello che gli avevi dato non andava bene, era cupo, era molto peggio di quello che mi ha dato a me. Quello che ha dato a me andava bene, a parte che te l'ho detto, con la mia voce non andava bene, ma quello non so cosa ci aveva, boh. Non era andato tanto bene. E vabbè, purtroppo questi baracchini, cioè baracchini, questi apparati hanno una certa età, mia, è roba degli anni 80, no? Ormai hanno fatto il loro tempo, potevano essere apparecchi moderni all'epoca, ma ormai, boh. Bene, e comunque è difficile vendere, perché tutti vanno a scambiare, se vogliono dare roba vecchia in cambio, non esiste. Non esiste, dai. Voi continuate a dare la colpa ai quattro gioiellini della Fiebold. Siete voi che non riuscite a portarlo, non ci avete modulazione. Non ci avete modulazione, io non ho mai avuto un problema, mai e poi mai. Siete voi che non avete voce. Guarda quella di Massimiliano. Se tu vedi la radio Massimiliano ti metti a piangere di quanto è nuova, di quanto è bella. No? Appena l'ha comprata, l'ha portata qua. L'ho aperta per vedere se appunto era in ordine, c'era ancora il sigillo all'interno, tutto il coperchio superiore, nell'apertura al libro, quindi dove praticamente c'è il cuore e la radio, c'è ancora il sigillo, capito? Guarda come esce lui, io l'ho provata qua, si è spaventato. Siete voi che non ci avete voce per portare l'MC60 o similare. Io, madre natura mi ha fatto così, cosa vuoi ti faccia? Vabbè, ma fino a un certo punto, non mi pare che mi aveva detto che l'aveva controllato, non so con che strumenti, e non uscivano bene i watt, boh. Non tutti escono col buco le ciambelle, no. Aspetta che è pronta la pizza, dai, un attimino, secondo round. Non era roba mia quella che ho dato a Gianni, gliel'ho presa io, ma non era roba mia, la roba che ho dato io, quella avevano toccato la potenza, poi lui l'aveva data a Fabrizio e gliel'aveva allineato, capito, però come radio era eccezionale anche quella. Oh, eccomi qua, secondo round, secondo pezzo di pizza, dai. Ma non è rientrato Gianni, era al telefono. Gianni, Natalino, ci siete? Gianni penso sia al telefono, Natalino c'è la gente. Hai capito, non era roba mia quella. La seconda che ha preso da me è quella che ha dato a te, ma la prima non era roba mia quella di Gianni. La seconda, sì, la seconda gliela ho data io, era perfetta. E poi l'ha passata a te. E tutti lo criticavano perché non ci va bene il radio. Io lo credo, sono tutti lì attaccati. La stessa cosa, è un po' distante come sono io. Guarda, quella di Gianni, quella che io poi gliel'ho comprata io a Gianni, l'ultima che aveva. Ok. E quella lì l'ho data Valerio, ma vedi come esce perfetto, dipende dalla voce, dipende dalle corde vocali, purtroppo. Da. Il mio, cioè, funzionava bene, solo che la mia voce non l'avevo dato a chi? A Eugenio, no, non è Eugenio, Benito l'avevo data a Benito, ma Benito lo stesso non entra più, cos'è, ne ha tolto tutto. Ma poi anche vedi durante la serata, vabbè anche io mi assento, ma quello c'è gente, chi dove tutta la sera al telefono, alla fine non parliamo mai. E vabbè, tutti c'hanno impegni. Guarda, io quella che ho comprato non ho toccato niente, l'ho presa, l'ho messa lì, di 140, no, c'ho anche 140, c'ho il 430, il 440 e il 140. È comodo, te la faccio sentire, io non ho toccato niente, come me l'hanno data è. Ok, quindi non ho toccato, non mi sono regolato niente all'interno, nulla, non l'ho manco toccata, niente. Niente di niente, eppure esce fortissima, esce anche più forte di questa, capito? Quindi vedi bene Marco, cioè non lo so. Dipende da chi le usa. Guarda Fabrizio ad esempio, che è uno degli unici che assieme a me portano bene questo tipo di radio col 60. C'è una voce micidiale, fortissima, bella, chiara. Tino, guarda Tino che c'ha il 440. Cosa ti posso dire? Un Alessio con C80 che facevo saltare i passeri da sopra gli alberi, io con 60, tutto cupo, non usciva, ho dovuto mettere in saletta. Ci sono persone che lo portano bene, altre persone che non va. Eia, te l'ho detto, rimpiango solo lo smitter di quell'apparato, potevo dare segnali abbastanza veritieri. Per il resto però a mamma non piaceva d'aspetto, lo sai, dice c'è questa lucina blanda blanda dello smitter, non c'ha luci, non c'è niente, è abbastanza scuro come apparato, come dire, ma sai, perché a lei piacciono i baracchini cromati, capito, scintillanti, e quello era un'altra cosa. Vabbè, comunque fatto l'esperienza, una volta finito, boh, ciao. Non mi interessano più quegli apparati, assolutamente. Io sono per i baracchini. Ma ti che sarebbe, sì, i baracchini a sintonia continua li chiamo io. Però sono HF, perché fanno 0,30. Così chiamati sono, ma per me sono baracchini a sintonia continua. Io dall'83 che uso questo radio, quindi baracchini ne ho usato pochi. E ne ho belli, da poter usare, da poter abbinare, beh, ma non mi interessa. Con questi e basta, capito? Vedi, Gianni Capri 2 esce bene, anche troppo, perché grida, però quello di Massi mi dispiace, perché ti ripeto, è una radio eccezionale, nuovissima, nuova, però lui con l'MC60 non va, lì ve l'ho già detto, ci vorrebbe un 85 col parametrico, dare appena appena più di acuti, allora uscirebbe bene, ma lui non le piace l'85, capito? Tutto lì, perché c'ha una voce eccezionale, però c'ha le tonalità medio-basse, capito? Non c'ha molti acuti come c'ho io, e quindi no, il microfono non spinge come deve spingere, sto qua. Però, ripeto, non date colpa alle radio, perché voi le comprate, non le toccate, tu esci cupo, la porti qua e te la faccio sentire come esci. Lo sto dicendo, 140 giri non l'ho toccato, niente, l'ho solo aperto per vedere che condizioni era dentro, è perfetto, è nuovo, non sono stati fatti lavori, niente, l'ho richiuso, l'ho messo lì, commuto, anche ieri stavo modulando tutta la sera con quello, quindi oggi tocca 4,40, domani 4,30, e faccio a turno, un giorno per uno. Eia, anche perché quelli lasciali fermi è controproducente. Cosa ti volevo dire? Boh. Ah, la rumorosità anche del 440, mamma mia, in HF. Io l'avevo messo, ero andato a San Francesco con l'antenna veicolare per i 40 metri, no? E mi ricordo che il 440 l'avevo seduto sul sedile, no? E mi ricordo che era rumoroso anche con l'antenna veicolare in 40 metri. Certo, non come a casa, ma abbastanza rumoroso per essere l'antenna della macchina. Poi c'è l'857 con l'antenna veicolare, era un bijou, bello, silenzioso, non sentivi QRM, sentivi solo le modulazioni. E guarda che l'857 è già rumoroso di suo, però con quell'antenna da macchina era un bijou, guarda. Poi una volta ho provato in 45 metri a fare un fischio da paramobile mio. E ho sentito, avanti fischio, cioè dalla barra mobile ho chiamato, tac, subito hanno risposto. O meglio, ho fatto il fischio e subito mi hanno sentito, per dire, dal continente. Troppo facile, sarebbe stato troppo facile. Sì, ma tu ti parlavo del 140 ti ho detto che è un cesso come ricevitore in HF, già il 440 e il 430 se lo mangia, il 440 come ricevitore, ma già il 440 va un po' meglio perché c'ha tutti i filtri, ok? 140 non va nulla, è un baracchino, si torna a continua, ti ho detto, rumorosissimo, rumoroso anche in AM rispetto al 440, io infatti lo uso poco, però l'ho preso di scorta, non si sa mai che prima o poi mi lascia a piedi di nuovo il 440 e non ne riparo più, lo tengo lì a petti di ricambio, ma non ne riparo più, non ci ributto di nuovo altri 200 euro sopra, ma manco a pagarlo, capito? Quindi niente, c'ho anche il 430 in ordine, l'ho ritirato a settembre dell'anno scorso, inizialmente l'ho regalato un paio di volte, una sistemata a Fabrizio, però me l'aveva detto che prima o poi mi lasciava a piedi perché era tutto da riprendere. Alla fine mi sono deciso e l'avevo mandato a Bianconi. Anche lì ho speso più di 150 euro. Capito? Però adesso è a posto e funziona bene, lo tengo anche quello. Ma il 140 non li fa i difetti che fanno, che fa il 440, capito? È un mattone quella radio, è un mattone. Ciao Giuseppe, buonasera. È quello che stavo spiegando a Marco, capito? Io vado con un microfono da 30 euro e la modulazione è forte lo stesso, perché? Perché spingo le corde vocali, spingo il petto, come diceva Antonio Grotte. Ed è così, queste radio purtroppo hanno bisogno di una carenza molto alta per poter avere il massimo. Ci sono persone che ce l'hanno di natura e persone no, e quindi è chiaro che non hanno i risultati che posso ottenere io, capito? Cioè, quello che spiegavo infatti a Marco, riprendi Marco per Giuseppe. Ciao Giuseppe, ti volevo fare una battuta, tu spingi di petto, io spingo di petto. Lo so, così diceva Antonio Grotte, che io ho le corde vocali al petto, spingo di petto, diceva lui, e cosa vuoi ti dire? Così sono, ma da sempre, allora io mi ricordo a poco tempo, nel 1975, io avevo la KB23 col Turner più due da tavolo, la stessa radio ce l'aveva Giampaolo, non la mai, ma Giampaolo Silvestre, Giampaolo RC2, con la stessa baracchina, lo stesso microfono, non c'era paragone, assolutamente, me lo ricordo come oggi, tutti dicevano Giampaolo, tu non hai neanche la metà della modulazione, ma sto usando lo stesso microfono, lo stesso baracchino, sì, ma non hai neanche la metà della modulazione che c'ha Claudio, assolutamente. Avanti Giubrecco, avanti Giubrecco. Santiago 3, guarda. Ho sentito un brecco, sembrava Capri 2. Sì, sto parlando, Santiago 3 sta arrivando, non la brucia tutto, senza antenna e scende. Allucinante. Vediamo cosa sta usando stasera. Gianni Capri 2, se mi stai ascoltando, sei passato da Santiago 9 a Santiago 3. Mamma mia, come sto. Gianni, Santiago 2, Marco, manco ti ascolta, Santiago 2. Roba, li faccio i contatti. No, già, Gianni, fai piacere. Qua sale e scende. Mi sembri Sandokan, sale e scende la marea. Ma hai rubato la battuta. Mi sembri il figlio di Yanet, sale e scende la marea. Adesso stai uscendo, poco fa sembrava il figlio Giovannino Appiori, che saliva e scendeva dalla scala. Per carità. Ma che cazzo di impianto ha? Non ci siamo Capri, stai salendo e scendendo, un po' sparisci, un po' appari, no, non va bene. Controlla, perché guarda che puoi bruciare tutto, E ogni tanto hai un piccolo picco di discesa, dai. Grosso modo, ma se vai e vieni, non va bene, o bisogna fare le saldature nuove, oh. Diciamo che la radio è buona, va. Stai andando a Santiago 8, così, una cosa del genere, ok? Però ogni tanto, come ti ha detto Marco, manchi di segnale, capito Capri? Cosa ci racconti Giuseppe? Bismarck, vabbè, la mia voce è quella e Giuseppe, capito? Aspetta che sto regolando anch'io. Ecco qua. Sto andando con 20 watt. Ciao Vale, buonasera. Vediamo, Marco, riprendi, dai. Aspettiamo a Capri 2 se ce la fa a mettere a posto questo impianto. Eia. C'è gente sempre in PMR. Aspetta che abbasso il volume. Ehi, vabbè, dai, adesso sto finendo di mangiare, quindi ho le mani tutte fatte d'olio, dai, rimango in ascolto un attimino. Ma lunga sta telefonata di Gianni, è Natalino, aio, ci siete? Natalino, è arrivata gente, non lo sai che se arriva gente lì deve staccare, non può rimanere, sa così tutto a vista come fa, se stanno parlando, non ti vuoi fare lì, infatti lascio, capito? Va bene, sei Gianni al telefono comunque, Capri 2 è messo a posto? Mi sa che uscito il fumo. Tu dici che è uscito il fumo? Tutto bruciato. Aspetta che vedo una portante. Chi è? Avanti. Fenomeni paranormali incontrollabili. Com'era quel titolo? Mi ricordo una cosa del genere. Allora Valerio, come stai? Meglio? Se se ne va, già si riesce a riprenderla, dai. Già non scappa, già non va da nessuna parte. Vero Giuseppe? Non avrei questa portante, io non la vedo. Vabbè, sarà Gianni, ma se non la registro io qua, come fate a registrarla voi? C'è un fischio sotto? Non mi avete sia una portante, però sì, sia io che sto fischiando. E cosa volete che vi dica? Sarà Gianni che sta provando. Marco Condor, riprendi? Sono arrivato al budino, al dolce. E vabbè, dai. Ciao Valerio. Io quando attacco a mangiare, per me è un rituale, dai. Mi devo dedicare appieno. Eia. Tutto abbastanza bene. Bene, bene. Sono senza parole, dai, ho la bocca impegnata. Buon pranzo vorrei dire. Per lui è buon pranzo, altro che buon pranzo, buon pranzo. E io ancora altri 10 minuti. Che ora sono? 10 minuti, un par di palle, dai, mi preparo. Mi preparo, devo portare il cane. Ok, mi prendete, già rientro subito, cambio. Quel lineare, ma quello piccolo? Sì, quando vengo all'Alghero già ne parliamo, Per questi giorni mi avvicino, intanto vado a trovare la mia sorella che sono lamentate, sono un anno che non ci vado. E hai ragione Ivani Giuseppe, ma io ho poco tempo, cioè stare in giro. Non è che stavo giocando, capito? Lì sono tutti pensionati, ma io da un paio di mesi che sono a casa, quindi la sera non ho voglia di uscire. Adesso mia moglie ha deciso, sabato andiamo e ci facciamo una passeggiata al ghetto. Sei troppo sedentario. Anzi, tu sei abituato a muoverti, io no. Io sono uscito anche troppo, però, capito, loro parlano bene. I miei cognati Alghero sono già in pensione da qualche anno. Mie sorelle non fanno un cacchio dalla mattina alla sera, capito? Non vuol dire, scendete voi la domenica, sabato, ci mettiamo d'accordo, andiamo a mangiare una pizza. No, no, no, sali tu, sì. A pigliarla in gomma le vostre mani. Ah, non si vogliono muovere, devi muoverti sempre tu, così che è troppo comodo, un po' per volta. Io l'estate, quando ero in ferie, quando vado in ferie ci vado spesso al ghetto, però giustamente lavorando no, arrivavo a casa poi anche il sabato, la domenica, io facevo prima un sabato sì, un sabato no, domenica sì, una no. Quindi quando lavoravo di sabato, che arrivavo a casa alle 2:30, ti pare alle 5 dovevo prendere la macchina, alle 6 andare al ghetto, ma non ti andavo. Metto a casa, non sto uscendo adesso, sono in pensione, figurati prima. Lascia perdere, pure a trovare Alghero, mi fa come piace a me andare Alghero. Ucci, scalavrea che a rientrare è tutto buio, tutto un casino con la strada, vai a cagare. Vabbè, ve l'ho annunciato da prima, io vi lascio, rimango in ascolto, lascio tutto acceso qua e ci sentiamo dopo se ci siete, vado a portare il cane. E già tardi. A dopo, ciao a tutti.